Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, probabilmente siamo ancora immersi in un periodo di eccessi alimentari, allora vi segnalo un libro che parla di cibo e di storie ed è di Massimo Montanari, che è uno dei più noti storici dell'alimentazione. Il suo libro si intitola I racconti della tavola, è pubblicato dalla Terza, 218 pagine, 18 euro. Qui non troviamo delle ricette, ma delle storie, come vi dicevo, ambientate in vari periodi, dal 774 al 1655, per concludere con un picnic nel paese di Cuccagna. Tutte storie che hanno a che fare col cibo, vi incontriamo diversi personaggi e anche diverse esperienze nelle quali si è sviluppato questo rapporto fra la tavola e il cibo. Per Massimo Montanari, infatti, cibo e bevande sono un modo per esprimere appartenenze, identità, relazioni, sono strumento di socialità e di comunicazione, e questo nesso viene illustrato in tante storie. In una di queste, per esempio, si parla delle prime legislazioni contro il lusso, anche contro il lusso a tavola, si parla dell'editoria culinaria che si sviluppò abbastanza presto, e troviamo per esempio un grande intellettuale, il Platina rinascimentale, che era amico del più grande cuoco dell'epoca, Maestro Martino, che arriva a Roma da Milano e fa quello che in fondo fanno tutti i grandi chef di oggi, cioè innova in maniera molto radicale la cucina. Ma su questi personaggi sentiamo adesso l'autore. Buonasera Massimo Montanari. Buonasera, buonasera. Massimo Montanari, lei comincia il suo libro spiegando che i racconti della tavola raccontano l'economia, la politica, i rapporti sociali, raccontano i paradigmi intellettuali, filosofici, religiosi di una società. La tavola racconta il mondo. Ecco, da questo punto di vista, allora, qual è stato il racconto più sorprendente che lei ha trovato in questa raccolta che lei ha curato? Beh, sono tanti figli miei, non vorrei sceglierne uno piuttosto che altri, però insomma ce ne sono alcuni che sono formidabili. C'è per esempio questo raccontino che ho posto all'inizio, che a me piace moltissimo, questo di Carlo Magno e di Adelchi, che chiamo raccontino, in realtà è un dramma che si svolge a tavola. È uno di quelle storie che ti fanno capire la densità dei temi che attraversano, non dico il cibo, ma proprio la tavola come luogo di espressione. Si tratta di Adelchi, il principe dei Longobardi, che è stato sconfitto da Carlo Magno e che si intrufola alla sua tavola di nascosto con la complicità di un servitore che già era stato servitore suo e di suo padre, e che poi si fa mettere in fondo ad una tavola e si fa osservare dai vicini per un comportamento molto curioso, cioè tutte le ossa che vengono portate via dai piatti dei commensali, gli amici di Carlo Magno, ossa di cervo, ossa di orso, ossa di bue selvatico addirittura, immaginiamo una scena del genere, siamo alla fine dell'VIII secolo, e lui tutte queste ossa le rompe, le spezza, spolpa le midolla e fa un gran mucchio sotto la tavola. Poi scappa, si dileguà, perché lui ha già parlato, lui si è presentato a tavola di fronte a Carlo Magno e ha lasciato un messaggio, che è il messaggio che vuol dire: io sono un uomo molto forte, attenti a me che potrei ritornare da un momento all'altro. E questo è il messaggio, diciamo, esplicito che lui lascia. Poi, ricercando, io ho individuato anche dei messaggi subliminari in qualche modo, che rimandano alla cultura germanica, dove c'è tutta una mitologia sulle ossa degli animali che consentono magicamente agli animali di rinascere, di ripercorrere il cammino della fertilità, di propiziare il cibo, per cui rompere le ossa è una sorta di infrazione alla sacralità di questo mito, che in fin dei conti, dal punto di vista di Adelchi, rappresenta una sorta di maledizione di Carlo Magno, cioè è veramente un drammone. E io ho cercato di raccontarlo, come ho fatto in tutti i capitoli di questo libro, un po' dall'interno. Non so se lei ha osservato che nella piccolissima introduzione, dove io così introduco questo tema della tavola come luogo espressivo, come luogo che comunica, che racconta, ho citato solo un personaggio che magari in un libro di narrativa storica sarebbe un po' strano pensarlo, ed è Maigret. Ho parlato di Maigret perché lo storico è un po' come un investigatore, trova degli indizi e cerca di ricostruire delle storie. Ma può farlo in modo freddo, razionale, scientifico, alla Sherlock Holmes, oppure, come fa Maigret, mettendosi dentro alle storie, respirando il clima, ascoltando gli odori, i profumi, le occhiate, il clima che si crea nei luoghi. Questo è un po' il segreto di Maigret quando fa ricerche su ciò che è accaduto. E io, in questo libro che ho intitolato appunto I racconti della tavola, ho voluto cercare di fare una storiografia calda, di mettermi al centro di queste tavole, di condividere con i personaggi i loro momenti e di coinvolgere anche il lettore, di farlo sedere a tavola e di cercare di capire che cosa sta succedendo, anche in modo empatico rispetto a quello che accade. Incontriamo a un certo punto un personaggio di tutt'altra indole rispetto ad Adelchio, cioè San Francesco, che lei scrive ebbe con il cibo un rapporto più sereno che per esempio avevano i benedettini, che lo vedevano come una fonte di peccato, un'occasione di peccato. Sì, questo libro ci fa incontrare personaggi di ogni tipo, poeti, monaci, contadini, uomini, donne. San Francesco lo definisco un personaggio che ha avuto un rapporto cordiale col cibo, perché appunto nella tradizione monastica del primo Medioevo invece il rapporto col cibo, col piacere, è un rapporto molto difficile. Anche Francesco faceva le sue astinenze, i suoi digiuni, però sostanzialmente lui aveva un rapporto più umano, più cordiale, più sereno. I suoi biografi ricordano una volta che di notte uno dei suoi fratelli svegliò tutti urlando: sto morendo, e Francesco si alzò spaventato e disse: chi ha urlato? E questo suo frate disse: sto morendo di fame. Di fronte a un'affermazione del genere si vede che avevano fatto un po' troppa astinenza il giorno precedente. Francesco non ha dubbi, fa alzare tutti e li mette tutti a tavola a mangiare, per segnalare il fatto che la convivialità è superiore a ogni forma di mortificazione, che condividere il cibo è bello e sacro, ed è bello e sacro anche togliere dal fratello il senso di colpa che ha nel fatto di avere fame, sedersi a mangiare con lui per fargli superare il senso di colpa. Questo è molto bello, com'è molto bello anche paradossale. Un altro episodio che ho raccontato sempre a proposito di San Francesco è un episodio natalizio o prenatalizio, perché i fratelli di San Francesco si stanno chiedendo che cosa fare il giorno di Natale che verrà di venerdì. Dovranno festeggiarlo come al solito con un bel banchetto a base di carne, o dovranno astenersi dalla carne perché è venerdì? Discutono, non arrivano a una soluzione, alla fine decidono di andare a chiederlo direttamente a Francesco e mandano uno di loro, Morico. Questo Morico, quando pone la domanda a Francesco, ne riceve un sacco di improperi: ma Morico, tu sei impazzito, tu stai peccando se pensi che il giorno di Natale possa essere un venerdì. È una frase paradossale che vuol dire: in un giorno di questo tipo non si può mortificarsi, si deve fare festa, e il primo modo di fare festa è il cibo, e il cibo per eccellenza della festa nella cultura medievale è la carne. E qui Francesco parte con delle immagini paradossali, addirittura surreali, perché dici: in un giorno come questo bisogna che non solo gli uomini si siedano insieme a mangiare di più e a mangiare bene, a mangiare carne, ma anche gli animali che noi nutriamo quel giorno devono avere una razione più abbondante di cibo. E dice: se un giorno potrò parlare con l'imperatore, gli dirò di emanare un editto in cui si dice che il giorno di Natale tutti devono distribuire cibo agli animali, agli uccelli, alle allodole, che sono le mie preferite. E poi, in un attimo che sembra veramente di pura follia, dice: in un giorno come questo perfino i muri dovrebbero mangiare carne. E poi ci pensa un attimo e dice: vabbè, però i muri non mangiano, non hanno la bocca, allora almeno prendiamo delle spugne impregniamoli di grasso. È un'immagine veramente surreale che dà l'idea di questo Francesco come di un personaggio che vede la festa del Natale come l'occasione per una sorta di banchetto universale a cui tutti gli uomini, tutti gli animali e perfino gli oggetti inanimati come i muri delle case debbono partecipare. In un altro racconto incontriamo Dante Alighieri, la corte di Roberto d'Angiò. Questo è un racconto più sul Galateo e sull'etichetta, mi sembra. Sì, infatti l'ho intitolato Dress Code, come ci si comporta e come ci si veste a tavola. È un racconto molto divertente che si raccontava attorno a Dante Alighieri, personaggio di grande fama, ma famoso anche per la sua bizzarria. Il racconto è questo, che lui viene invitato dal re di Napoli, Roberto, un giorno a pranzo e arriva tardi. Arriva tardi e quindi nella fretta dell'ultimo momento è vestito in modo dozzinale, anche se in realtà il cronista che ci racconta questo episodio dice come solevano i poeti fare, cioè la dozzinalità dell'abbigliamento non sembra dovuta solo alla fretta, ma anche al fatto che lui è poeta, fa un po' l'intellettuale, il bohemien ante litteram. Vabbè, allora lui arriva e così nella fretta dell'ultimo momento, vestito un po' male, lo mettono in fondo all'ultima tavola, perché c'è all'interno della sala del banchetto una geografia precisa che rappresenta i rapporti, le gerarchie, i livelli di potere. Ci sono dei luoghi più importanti di altri e Dante viene messo proprio in coda all'ultima tavola e si offende, però ha fame e quindi mangia, ma appena mangiato si alza e se ne va. Verso la fine del pranzo il re dice: ma quel Dante che avevamo invitato poi è venuto? E uno dei servi gli dice: sì, Dante se n'è andato, ma penso che sia già in cammino. E dice: ma come? Andatelo, rincorretelo, che io gli devo parlare. E manda una lettera per pregarlo di ritornare immediatamente. E Dante riceve questa missiva mentre è ancora in viaggio e ritorna di nuovo alla corte di Roberto, sempre a Napoli. E questa volta qui si veste bene, di una bellissima roba, come dice il cronista. E viene accolto con tutti gli onori, messo nella tavola vicino a quella del re, anzi a capo tavola della tavola vicino a quella del re, e così tutto il pranzo procede fra varie formalità, discorsi, eccetera, eccetera. E poi comincia il teatro. Il teatro comincia quando arrivano le vivande, ma quando arrivano le carni, Dante Alighieri comincia a fare delle cose strane. Prende le carni, prende gli uccelli cucinati e se li mette addosso, una sul braccio, una sulla spalla, prende il sugo e se lo versa sopra alla camicia, arriva il vino e se lo versa sui pantaloni e attorno a lui dicono: ma questo Dante è un po' pazzo, sappiamo che i poeti, gli intellettuali sono strani, ma fino a questo punto non immaginavamo. E il re stesso a un certo momento gli dice: ma Dante, che cosa stai facendo? Io sapevo che tu sei un uomo saggio e che schifezze stai facendo alla mia tavola. E Dante non aspettava altro, il suo piano sta funzionando. Gli dice: infatti, sua maestà, io ho visto che l'onore che voi mi state facendo non è fatto a me, ma ai miei panni. Infatti ieri ero vestito male, mi avete messo in fondo all'ultima tavola e mi avete dato da mangiare delle cose più semplici. Piccola parentesi, le cose sono distribuite anche queste in modo diverso a seconda delle tavole. Chiusa la parentesi. Oggi invece che sono vestito così bene mi avete messo in un posto d'onore, quindi l'onore che mi avete fatto è fatto ai miei panni e voglio che anche i panni godano delle vivande che voi avete servito a tavola. La battuta è una piccola bacchettata al re, ai servitori che hanno attrezzato tutto, il re la prende in maniera giusta, cioè con un sorriso, anche perché in fondo Dante aveva ragione, e tutto si chiude con questa lezione morale e con una bella conversazione fra il re e Dante, che viene tenuto a corte per 2 o 3 giorni e ha modo di parlare con tutta la sua saggezza al re. che quindi è contento di averlo avuto ospite, eccetera, eccetera. E anche qui la tavola diventa il luogo di una bella conversazione gestuale, ecco, questa è un po' l'idea, no? La tavola racconta con un linguaggio gestuale ciò che si potrebbe anche dire a parole, ma coi gesti funziona meglio. Grazie a Massimo Montanari, autore appunto dei Racconti della Tavola. Buona serata. Buona serata a voi tutti, buona lettura. Un racconto della cucina italiana ispirato a un grande maestro, Pellegrino Artusi, e Artusi Remix, pubblicato da Mondadori, l'autore Don Pasta, che è lo pseudonimo di Daniele De Michele, 346 pagine, 19,90 €. Ad Artusi il libro si ispira nell'approccio, perché questo, pur essendo un libro anche di ricette, ci presenta queste ultime come espressione delle culture locali e familiari che rendono la cucina appunto uno straordinario fenomeno antropologico. In fondo, con questa chiave Artusi si era avvicinato alla sua monumentale presentazione della cucina italiana. Dai tempi dell'Artusi naturalmente è cambiato tutto, sono cambiati i gusti, sono cambiate le abitudini alimentari, e quindi qui troviamo una descrizione di queste trasformazioni, e queste ricette sono firmate ciascuna da gente comune, da persone che le hanno segnalate, fatte conoscere all'autore nelle loro magari varianti rispetto alla versione originaria. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Un altro libro di storie culinarie, quello di un grande storico, Franco Cardini, che ha scritto L'appetito dell'imperatore, storie e sapori segreti della storia, è pubblicato da Mondadori, 356 pagine, 19 €. Qui troviamo pure una serie di racconti, di novelle, di racconti storici, nei quali però troviamo anche delle ricette che sono ambientate nel contesto storico nel quale erano nate. Il cibo, ci dice Cardini, è centrale nella vita dell'uomo, ma l'esperienza del mangiare può assumere delle valenze molto differenti. Scrive infatti Cardini che tutti noi abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita il mangiare insieme come eros travolgente, oppure come fraterna concordia e amorevole condivisione, agapè, scoperta dell'altro da sé in noi e di noi stessi in lui, o perfino come esperienza tremenda, qualcosa come la sublime e terribile cena alla quale Don Giovanni invita la statua del Commendatore nella famosa opera di Mozart. E qui quindi abbiamo una serie di racconti storici, ciascuno dei quali si conclude appunto con una o più ricette che riguardano quel periodo, quel personaggio. Si comincia per esempio con la ricostruzione di un personaggio di cui abbiamo appena parlato, San Francesco, e la morte di San Francesco è l'occasione per introdurci a due ricette che egli amava, l'acqua cotta e i mostaccioli, e poi tanti altri incontri fino al giorno di oggi, intervallati da tre intermezzi semi eruditi, come li chiama l'autore, che sono dedicati alla castagna, al caffè e al tartufo. E proprio dalle righe dedicate al tartufo leggiamo alcune righe che ci propongono un insolito parallelo. Senza vantarmi, io fiuto abbastanza da lontano i tartufi e i libri. Così si esprime un personaggio della rosticceria della regina Piedoca di Anatole France, singolare romanzo gastronomico, ermetico, bibliofilo, nel quale è descritta l'ascesi del giovane figlio di un rosticiere parigino dal basso materiale corporeo, della taverna e degli amori ancillari, su fino alle vette dell'improbabile esoterismo di cui, come tutti sanno, dal Settecento in poi, ma anche prima, sono piene le librerie e le biblioteche parigine. Che cosa lega il tartufo al sapere, quindi al libro? Sul piano della cultura l'olfatto, in senso sia proprio sia traslato. Il tartufo si sente, si fiuta, esattamente come il bel libro. Ma chi ha dimestichezza di vecchie carte sa bene che esse hanno un odore tutto loro, un aroma inebriante per lo studioso, qualcosa che immediatamente passa dall'olfatto al gusto, dalle narici al palato, ancor prima che l'occhio intraprenda il lavoro della lettura. Un po' allo stesso modo il tartufo si sente, si odora, ancor senza vederlo, e un'operazione iniziatica, la principale tra tutte, presiede alla sua scoperta. E la rosticceria della regina Piedoca di Anatole France, pubblicato da Novecento, 278 pagine, 15 €, con la traduzione di Michela Giuliana. E a questo punto... Il confettino. Un libro culinario è una zuppa 100% strega di Quiteri Simon, pubblicato da Edizioni Clichy con le illustrazioni di Maguile Huche, ed è tradotto da Tommaso Guerrieri. Costa 15 euro e questo è un bel libro per avviare i piccoli al piacere della minestra. Ricordiamo due anniversari importanti che hanno segnato l'anno che si sta per concludere. In questo 2014 è stato infatti il 90° della morte di Joseph Conrad, il grande scrittore di origine polacco. Si chiamava in realtà Theodor Joseph Conrad Korzeniowski, divenuto poi inglese per adozione. E soprattutto diventato uno dei più grandi scrittori inglesi, e non soltanto a cavallo fra l'8 e il 900. Di una delle sue opere più famose, La linea d'ombra, esce adesso una nuova traduzione di Simone Barillari, che è pubblicata da Feltrinelli, 182 pagine, 6 euro. Questo è un racconto lungo del 1916 di ambientazione marinaresca, nel quale le traversie di una nave colpita da varie disgrazie diventano un'allegoria della guerra mondiale che ancora insanguinava l'Europa, e guerra alla quale partecipava in quei mesi il figlio dello stesso scrittore, varcando così la linea d'ombra della sua generazione, come scrisse Conrad nella dedica. E così scrive il curatore: la linea d'ombra può leggersi come la trincea, la profonda linea d'ombra del Novecento in cui l'umanità perse, come in una muta storica della propria pelle, gli ultimi resti della sua giovinezza. E in una nota qui pubblicata, Conrad fece riferimento indiretto alla guerra, avvertendo di non voler proporre un parallelismo tra il conflitto e l'esperienza qui raccontata, che ha anche tratti autobiografici, ma ammette Conrad: c'era la sensazione di un'identità comune, anche se su una scala enormemente diversa, come su un'unica goccia d'acqua fosse rapportata all'immensità amara e tempestosa di un oceano. E di Conrad Adelphi ha pubblicato Un avamposto del progresso, curato da Matteo Codignola, 124 pagine, 12 euro, e qui troviamo due racconti, Un avamposto del progresso, appunto, più La laguna, del 1896, ispirati all'esperienza vissuta da Conrad in quella singolarissima esperienza coloniale che fu lo Stato libero del Congo, una proprietà personale del re dei Belgi, Leopoldo. E Conrad, nel primo racconto, tra l'altro, fotografa con straordinario efficacia la sensazione di abbandono di molti bianchi spediti nel bel mezzo dell'Africa. Pochi si rendono conto che la vita, l'essenza stessa della personalità, l'idea di ciò che è o non è alla portata, del punto fino al quale ci si può spingere, dipendono tutte e solo dalla consapevolezza di vivere in un ambiente protetto. Il coraggio, l'autocontrollo, la sicurezza di sé, le emozioni, i principi, i pensieri, solenni o minimi che siano, non appartengono all'individuo, bensì alla folla. Alla folla e alla sua fede cieca nella forza irresistibile delle istituzioni e della morale, nel potere della polizia e delle opinioni. Ma il contatto col selvaggio puro, con la natura e con gli uomini primitivi, provoca uno sconvolgimento improvviso e profondo. Il senso di totale solitudine, la chiara percezione che i propri pensieri, le proprie sensazioni non arrivano più a nessuno, la negazione dell'abituale che rassicura, cui si assomma l'irrompere dell'inusuale che inquieta. L'idea di qualcosa di vago, incontrollabile, disgustoso, che minaccia di corrompere tutto, surriscalda l'immaginazione e mette a dura prova i nervi civilizzati dell'uomo accorto, così come quelli dello sprovveduto. L'altro anniversario di cui vi parlavo è quello dei carabinieri, che quest'anno hanno festeggiato i 200 anni dalla propria fondazione. Un carabiniere, un generale di brigata, Giuseppe Governale, ne ha scritto la storia in Accanto agli italiani, è pubblicato da Mondadori, 302 pagine, 20 euro. Qui troviamo la storia, le benemerenze di quest'arma, e ci viene anche spiegato perché si chiama la benemerita, scrive infatti l'autore, che i carabinieri rappresentano un patrimonio di fiducia e consenso accumulato grazie a piccole e grandi prove di quotidiano impegno e di affidabilità professionale e morale che hanno finito per costituire la cifra distintiva dell'essere carabiniere. E su questo, per esempio, insiste Claudio Magris in uno dei saggi incastonati in questo volume, un saggio ricavato da una conversazione con un maresciallo dei carabinieri, il maresciallo Alessandro, che comanda una stazione di carabinieri a Trieste. E qui, a proposito dei carabinieri, Magris così si esprime. Naturalmente nemmeno l'arma dei carabinieri è costituita soltanto da santi e da eroi. E ci sono stati, come in ogni istituzione, pure errori e cadute, che certo non offuscano l'immagine globale del corpo e dei suoi meriti. Questo senso dello Stato, del bene pubblico, ha rappresentato una vera rivoluzione nella concezione della vita politica, civile e sociale. Purtroppo è un senso che in questi anni si è paurosamente, indecentemente deteriorato, degradando il nostro paese a una babele di consorterie truffaldine, per le quali la patria è una mucca da mungere fraudolentemente. La storia dei carabinieri è costellata di esempi e testimonianze di valore, di sacrificio, di coraggio, esercitati non come culto eroico, bensì quale semplice, ma in certi casi terribile, esercizio del dovere. Arrivi. Vi segnalo innanzitutto l'ultimo titolo di un noto storico dell'arte, Flavio Caroli, che pubblica Anime e Volti, l'arte dalla psicologia alla psicoanalisi, pubblicato da Electra, 316 pagine, 22,90 euro. Qui troviamo vari saggi dell'autore su un filone che gli è molto caro, ossia quello dello studio dei moti dell'animo attraverso l'opera di alcuni dei maggiori artisti, da Leonardo a Bacon. Un altro nome noto è quello di Lilli Gruber, che pubblica Tempesta con Rizzoli, 388 pagine, 19 euro. L'autrice continua qui la saga familiare avviata con L'Eredità, evocando gli anni tragici della Seconda Guerra Mondiale attraverso le vicende di una prozia. E infine vi segnalo di Louis Ginsberg, che è uno dei maggiori studiosi della letteratura talmudica e rabbinica, di origine lituana e poi emigrato negli Stati Uniti, dove morì nel 1953. Il quinto volume della serie, pubblicata da Adelphi, sotto il titolo Leggende degli Ebrei. In particolare questo quinto volume è dedicato all'attesa della Terra Promessa, sono 458 pagine, 28 euro, e il libro è curato da Elena Leventhal. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi do appuntamento a domenica e all'anno prossimo, e vi auguro buona serata.